Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Poiché sabato siamo qua, ciao. Poiché Chiara. Finalmente sabato, ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, partiamo parlando di Stonehenge, di una ricerca anche italiana che ci ha dato delle rivelazioni fantastiche. E poi andiamo a vedere all'opificio Golinelli a Bologna corsi per imprenditori, ma piccoli. E infine aiutiamo la ricerca sulle balene, sui cetacei, correndo, perché è stata istituita la corsa per le balene. Via, incominciamo. Abbiamo tutti negli occhi, magari non pochi l'hanno anche visto dal vivo, quella grande spianata verde, un prato al cui centro si trovano le pietre di Stonehenge, una struttura circolare con degli archi maestosi, semplici e affascinanti, e nel loro splendido isolamento, che spesso è anche attraversato da una lieve nebbia tipica delle campagne della Gran Bretagna. Ebbene, altro che splendido isolamento, professor Giulio Magli, quello che viene fuori dalle vostre ricerche è che in quel luogo c'erano molte più strutture architettoniche, ma molte di più di quelle che noi immaginiamo. E infatti con noi questa sera Giulio Magli, buonasera Magli, che è ordinario di archeoastronomia al Politecnico di Milano, dove qualche giorno fa si è tenuto un appuntamento veramente bello, singolare, anzi vi diciamo andate al nostro blog perché lì troverete un sacco di video, di immagini, di approfondimenti e anche tutto sì. L'appuntamento su delle rivelazioni, no? Questo punto, Magli, che riguardano il sito di Stonehenge, molto diverso da come l'abbiamo vissuto fino ad oggi. Sì, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Effettivamente ci stiamo rendendo conto sempre di più di come i monumenti di un passato così lontano, no? Pensiamo a Stonehenge quasi 5.000 anni fa, 4.500 anni fa, non sono e non erano isolati, ma erano parte di un paesaggio complesso, un paesaggio che possiamo chiamare sacro, perché aveva molti elementi del sacro e che era fatto di tanti elementi di cui Stonehenge era soltanto il culmine, il luogo, forse il luogo di pellegrinaggio terminale, che però prevedeva molte altre tappe. E alcune di queste sono state scavate, altre invece aspettano di essere scavate, ma sono visibili con queste tecniche ultra ormai moderne, specializzate, che ci permettono di vedere sotto il terreno senza fare indagini invasive. E infatti avete fatto delle analisi tecnologiche molto avanzate, anzi integrate tra loro, che vi hanno restituito, diciamo, questa mappa inedita. Magari se ci dice qualcosa sia sulle tecnologie, ma anche su come dovevamo immaginarci questo luogo. Le tecnologie sono quelle che ha applicato il Ludwig Boltzmann Institute di Vienna, e quindi sono ricerche non invasive che si basano sia sull'analisi della gravità che sulla magnetometria, quindi l'uso di campi elettromagnetici, eccetera. Quello che si vede è la presenza di una serie di strutture, in particolare si conoscevano dal Neolitico, perché del Neolitico che stiamo parlando, quindi del periodo, diciamo, del terzo millennio avanti Cristo, l'esistenza di grandi strade tracciate con terrapieni, e ce n'è una in particolare che porta proprio a Stonehenge, che è tradizionalmente chiamata Avenue, che introduceva questi pellegrini che probabilmente si recavano a Stonehenge in momenti particolari dell'anno, molto probabilmente al solstizio d'inverno, quindi entra anche l'astronomia. Ma oggi sappiamo che l'Avenue era solo una parte di tutto questo complesso, in particolare c'è un grande henge, cioè un luogo circondato da un grande terrapieno di terra che si chiamava Darrington Walls, c'era Wood Henge, cioè un luogo simile in qualche modo a Stonehenge ma costruito con grandi megadendri, cioè con grandi tronchi d'albero, e c'è probabilmente, questa è l'ultima novità, probabilmente c'è una nuova avenue, una lunga strada che circonda Darrington Walls, che contiene forse, ma speriamo di sì, dei grandi megaliti, cioè delle grandi pietre analoghe a quelle di Stonehenge, cioè i Sarsen, che si trovano ancora sotto il terreno, che si vedono con l'analisi non invasiva. Messe in orizzontale o in verticale? Come Stonehenge, in verticale? Fissate in verticale, di cui verticale. Si conoscono le buche. Però adesso verrà anche, si spera, tutto riportato alla luce, cioè dovete immaginarvi, ci sono delle specie di moto un po' grosse che hanno dietro come se stessero arando il campo, in realtà è lì che c'è il radar che va avanti e indietro, pennella il terreno e scopre, appunto, sta scoprendo questi resti. Le chiedo un'altra cosa abbastanza importante, allora allineamenti con solstizi, con albe, con lune, siamo nell'archeoastronomia? Siamo senz'altro nell'ambito dell'archeastronomia, cioè questa scienza abbastanza nuova che studia quali erano le conoscenze astronomiche dei costruttori di questi grandi monumenti e come le hanno inserite già a partire dal progetto, perché bisogna pensare, per esempio, visto che stiamo parlando di Stonehenge, Stonehenge ha un asse principale, un asse di simmetria, che è quello che attraversa il cosiddetto ferro di cavallo, sono tre grandi strutture di pietra che si trovano al centro e questo asse punta fuori verso l'orizzonte al sorgere del sole, al solstizio d'estate, se invece guardo da fuori verso dentro punta al tramonto, al solstizio d'inverno. Quindi chi l'ha costruito ha misurato prima di tutto questi fenomeni e poi li ha inseriti nel monumento, perché sicuramente per motivi religiosi, in particolare il solstizio d'inverno è un momento di rinascita, il momento in cui le colture agricole cominciano a fiorire, diciamo, ed era associato al culto dei morti, quindi a qualche idea di vita oltre la morte. E qui con noi anche Lucia Toniolo. Buonasera Lucia Toniolo. Buonasera. Buonasera a voi. Presidente del Centro Beni Culturali del Politecnico di Milano. E infatti questa iniziativa, come altre, è stata fatta nella cornice di questo Centro Beni Culturali che volete riuscire a lanciare come uno strumento che può lavorare sull'incontro tra tecnologie estremamente avanzate, anche nel restauro, per esempio, e il nostro grande patrimonio. Sì, è un discorso che senz'altro si fa da un bel po' di tempo, non è questa diciamo una novità. Certo. Il problema è metterla un po' a sistema, cioè far sì che per capire certi problemi dell'arte, dell'architettura, dell'archeologia, è necessario far dialogare competenze diverse, diversificate. Cioè per capire il problema di Stonehenge abbiamo bisogno dell'astronomo insieme all'archeologo, insieme al geofisico, insieme magari a un informatico che sappia elaborare questi dati in maniera opportuna. Mettere queste competenze insieme per risolvere un problema a volte è molto difficile, molto certo. Difficile. E questo lavoro è per i beni culturali, per la comprensione, la conservazione del patrimonio è assolutamente importantissimo. È il futuro. È un po' forse questa la novità, il fatto che ci sia appunto una struttura che possa lavorare così in maniera multidisciplinare che magari prima non c'era o comunque faticava a comunicare con ad esempio il Ministero dei Beni Culturali. Insomma, esatto, questa potrebbe essere la porta che si apre, insomma. Sì, sì, noi stiamo tentando di fare questo lavoro, cioè di portare fuori dall'università le nostre competenze verso chi ha il bisogno, fare da, in un certo senso, da mediatori, perché molto spesso chi ha il bisogno, chi sta appunto cercando, gestendo un sito magari complesso, non sa bene a chi rivolgersi e soprattutto con sufficiente affidabilità. Noi lo diciamo sempre, insomma, facciamo sempre gli auguri a chi fa ricerca, ma nel vostro caso auguri a mille, insomma, perché è uno scenario che in Italia dovrebbe finalmente aprirsi. Allora Toniolo, grazie per essere stata qui con noi. Grazie e Giulio Magli. Grazie Giulio Magli, grazie. Grazie, grazie a voi. Buon grazie lavoro a tutti a voi e due. Agli ascoltatori. Succede sempre qualcosa nel traffico e adesso ce lo raccontano. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'opificio Golinelli è una struttura nuova a Bologna nella quale la Fondazione Golinelli ha realizzato un progetto per la divulgazione della scienza a 360 gradi, davvero ben riuscito. Sul nostro blog potete vedere un video, insomma, che fa fare un piccolo viaggio in questa nuova realtà. E in particolare la fondazione organizza anche corsi di formazione rivolti ai giovani e ai giovanissimi, ecco qui la notizia, per costituire l'impresa, per fare impresa. Federico ha incontrato il direttore generale della fondazione, Antonio Danieli. Sentiamo. C'è una specifica attività di formazione che fate lì alla fondazione che è rivolta a preparare alla gestione di impresa. Ce ne sono tante di questo tipo di attività di formazione, ma la vostra scelta, che certamente è curiosa, è che voi avete strutturato dei corsi, dei workshop per ragazzi e ragazze estremamente giovani, sono ancora a livello, ci dico, che età hanno? 14-15 anni? Sì, partono dai 15 anni. Esatto. E poi invece fate un salto un po' più in là, ma andate a quelli che stanno facendo i corsi universitari e quindi, oltre a questa differenza di operare su dei giovanissimi, vi rivolgete anche a gente che non ha nemmeno esperienze di lavoro nel senso classico del termine. Allora, innanzitutto non è solamente un percorso di gestione di impresa, ma è anche un percorso di stimolo all'imprenditorialità e alla generazione di idee mediante il rafforzamento delle potenzialità creative e innovative che i giovani delle scuole hanno. Okay. Ed è un po' proprio questo l'obiettivo, cioè stimolare queste potenzialità nei giovani ancora sui banchi di scuola e dandogli la possibilità poi dopo di mettere in pratica conseguentemente queste idee. Sostanzialmente tutto il progetto nasce da una semplice banale considerazione: non si può aspettare più in Italia l'età media dei 34 anni per i neo imprenditori. Sì. E molto spesso i giovani dei banchi di scuola hanno già delle potenzialità innate che in realtà si perdono col tempo frequentando i percorsi formali, educativi e sì, formativi. Capisco. Sì, fondamentale. Questo è uno, cioè voi partite dal fatto, gli fate tirar fuori una delle tante idee creative che possono arrivare, poi li stimolate a dire va bene, questa cosa come potrebbe diventare una società, un'impresa, un prodotto? È così che lavorate? Esatto, e iniziamo poi dopo a dargli gli strumenti, cioè la seconda fase, a dargli gli strumenti per metterla in pratica e in modo tale che si arrivi poi dopo anche all'idea di una gestione, di cos'è un'impresa, quantomeno l'avvio di una gestione. Infatti il percorso per questo previsto è di 18 mesi, è molto lungo. È molto lungo. Ci deve essere un accompagnamento molto significativo. Beh, per esempio, ecco, lo sappiamo, i giovanissimi sono in grado di progettare per esempio delle cose che gli piacerebbe ci fossero in una città. Voi a quel punto gli dite va bene, però potreste essere un'azienda che la deve gestire, per esempio questa attività per quanto riguarda i giardini o gli spazi, no? Sì, sì, è un esempio calzante. Però che va a cogliere come attività uno dei problemi di fondo dell'iniziare a fare impresa, perché lo sappiamo tutti, si possono avere anche idee grandiose, ma se non si riesce a farle diventare quella macchina precisa con quelle concretezze, le idee grandiose possono restare lì a mezz'aria. E su questo siamo assolutamente d'accordo, proprio perché oggi siamo in un contesto interessante di afflato, di movimentismo, si parla tanto di start-up, si guarda a livello globale, ma poi dopo a volte si dà delle risposte che sostanzialmente possono essere dei coperchi peggio delle pentole, cioè fare impresa non è solo idee, che è fondamentale, ma è anche tanto altro. Certo. Non è che si può diventare miliardari tutti quanti quotando, creando un'app e poi quotandola a Nasdaq, ma fare impresa soprattutto in Italia deve essere secondo noi una giusta combinazione tra quello che è il nostro DNA, quello che è il talento, la creatività che possiamo e sappiamo e troviamo anche già sui banchi di scuola, ma aggiungendo poi dopo l'applicazione pratica alla sperimentazione, alla creazione e alla gestione di quello che può essere veramente un'organizzazione. Noi cerchiamo di portare i ragazzi a un qualcosa di prodromico o preventivo alla costituzione di un'impresa o al deposito di un brevetto, in campi anche molto particolari e avanzati dal punto di vista della ricerca scientifica o della tecnologia, ma li seguiamo con un pool di professori, di mentor, specialistici che sono in grado di consigliare questi ragazzi, dando poi anche loro delle risorse economiche. Senta Danieli, come si fa? La Fondazione Golinelli, l'opificio è basato a Bologna, si rivolge a ragazzi e ragazze del vostro territorio? Allora, il Giardino del Venere è nato rivolgendosi a tutti gli studenti delle scuole della regione Emilia Romagna, ma in realtà è aperto anche a tutta Italia. Già l'anno scorso abbiamo avuto degli interessamenti, tra l'altro è un percorso di selezione molto rigoroso da parte nostra, anche basato su poi dopo le candidature dei ragazzi che incontriamo, e ne valutiamo molto anche oltre che le capacità, le motivazioni, le aspirazioni, le determinazioni a partecipare a un progetto di questo tipo. In realtà uno può iscriversi anche da altre regioni. È il corso, una volta che il ragazzo viene selezionato, il corso è gratuito. Se uno venisse da fuori dalla regione Emilia Romagna dovrebbe dopo sostenersi l'ospitalità. E però insomma, cosa si fa? Si va al vostro sito, che è interessante, troverà delle informazioni per iscriversi e passare una selezione iniziale. È così? Assolutamente, esatto. C'è il giardino delle imprese.it, c'è tutta la spiegazione. Quindi si va al sito della Fondazione Golinelli, è facilissimo trovarlo in rete, e lì si trova una sezione che si chiama, mi ha detto poco fa, Giardino delle imprese. Giardino delle imprese. E poi dopo uno trova, c'è il percorso per le scuole superiori dell'anno in corso 2016, e alternativamente poi dopo invece ci sono le altre sezioni, per esempio per il progetto Icaro, che si rivolge agli studenti universitari. Va bene, ricordo ancora a chi ci ascolta che invece andando al nostro blog trovate un percorso video che vi descrive un po' com'è questo opificio, che devo dirvi ci sono stato ed è veramente bello. Antonio Danieli, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Anche tu sei rimasta sorpresa, Chiara. Io pensavo che fosse una situazione meglio messa. Adesso vediamo di che si tratta. Oddio, speriamo che possa migliorare. Cerchiamo di fare qualcosa anche noi. Allora, è già stato nostro ospite qui Sabina Airoldi. Intanto ciao, bentornata Sabina. Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori. Benvenuta. Allora, tu come Tetis, che è l'associazione che rappresenti, una onlus che si occupa di ricerca rivolta ai cetacei, e in particolare i cetacei che vivono nel nostro mare, in particolare nel Mar Ligure, in un santuario dei cetacei, forse non tanti lo sanno, che si chiama Pelagos, che è una sorta di triangolo che va dalla Liguria, grande, molto grande, prende anche un pezzettino di Monte Carlo e arriva giù fino alla Sardegna. Sì, esatto, e comprende anche una parte di acque francesi, fin quasi a Tolone. E tu ci dicevi, scusa, che lì dentro noi pensavamo che il traffico fosse un po' controllato, invece non mica tanto. No, purtroppo non esiste alcun tipo di controllo, insomma è una zona altamente trafficata, basta guardare una carta con le rotte dei maggiori cargo e dei ferries e ci si rende conto di qual è effettivamente la presenza di traffico marittimo, molto elevata, e dato che i cetacei vivono sostanzialmente con i suoni, questo traffico rappresenta un grosso problema, una grossa azione di disturbo, sia per un disturbo acustico, perché va veramente a incidere negativamente sulla capacità di comunicare e di ecolocalizzare le cetacei, ed anche purtroppo in quanti casi a ferire, in alcuni casi ad uccidere i grossi cetacei come la balenottera comune e il capodoglio. Allora, l'attività di Tetis va avanti da ormai 30 anni, nasce Tetis nel 1986, da allora non vi siete praticamente mai fermati, avete infatti un database di osservazioni e di ricerche praticamente ininterrotto e sistematico. Grazie ovviamente a questo lavoro siete riusciti a tirare un po' di somme, a capire ovviamente come stanno i cetacei, magari dici quali sono le specie magari che soffrono di più, quelle che stanno un po' meglio. Che cosa avete tirato fuori appunto da questi numeri, da questa mole di dati che voi avete in questi anni maturato? Sì, devo dire che 30 anni di monitoraggio ininterrotto ci hanno sostanzialmente consentito di fare la serie storica più importante di tutto il Mediterraneo, quindi questo è veramente veramente estremamente importante, perché ci consente di avere un quadro sulla dinamica delle popolazioni. Diciamo che nella nostra area di studio, che si trova nel Ponente Ligure, quindi proprio nel cuore del santuario Pelagos, in questi 30 anni abbiamo visto che ci sono delle popolazioni di animali che sono in aumento, come il capodoglio, lo zifio e la stenella, mentre abbiamo visto che nel caso ad esempio del grampo, un bellissimo delfino di 3,5 metri, è in drammatico calo, cioè il suo numero si è dimezzato negli ultimi anni rispetto agli anni 90, ma questo è proprio un punto focale, cioè è come se fosse se noi guardassimo attraverso un microscopio. In realtà dovremmo riuscire ad ampliare il nostro sguardo a livello di bacino, cioè di Mediterraneo, perché questi aumenti sono probabilmente dovuti solo a fluttuazioni distribuzionali. Cosa vuol dire? Magari si sono spostati, brava, ma sono diminuiti da un'altra zona del Mediterraneo, perché purtroppo i dati che sono al momento disponibili per l'intero bacino ci raccontano che la situazione non è rosea e che in effetti sono molte le popolazioni che a livello di bacino mediterraneo stanno effettivamente, il cui numero sta effettivamente diminuendo. Quindi da noi aumentano, ma probabilmente perché diminuiscono da qualche altra parte del Mediterraneo. Quindi poverino, il grampo è quello messo peggio. La balenottera sta abbastanza bene, però ha dei forti problemi con soprattutto le grosse navi, che appunto causano la maggior parte dei motivi di punta, praticamente sono incidenti, come dire, di collisione. Sì, esatto, ecco. Sono le collisioni. Diciamo che le grosse imbarcazioni, che soprattutto vanno a velocità superiore ai 15 nodi, sono il pericolo maggiore e la causa di morte di origine umana antropica maggiore per la balenottera comune. Ecco, per aiutare a sostenere la ricerca di Tethys si possono fare due cose. Una, che è quella tradizionale, cioè venire in barca con voi, fare ricerca con voi. Voi organizzate delle bellissime crociere in barca a vela, in cui ovviamente portate le persone, gli turisti, i ricercatori, anche studenti universitari, a vedere i cetacei, ma vi fate allo stesso tempo aiutare a raccogliere i dati, quindi questo già è un'esperienza davvero indimenticabile. E poi vi siete studiati un'altra cosa, la corsa per le balene. Sì, esatto, Run for the Whales. L'11 e il 12 giugno il Comune di Sanremo ha organizzato una manifestazione, ha promosso una manifestazione chiamata I Giorni della Balena, quindi dedicata proprio ai cetacei del nostro mare, del nostro Mar Ligure, in cui l'evento clou sarà proprio la corsa per le balene, cioè tutti quanti insieme, ci saranno i runners veri e propri, cioè i podisti che potranno cimentarsi in 10 km di corsa competitiva, FIDAL, quindi con tanto di punteggio e cronometraggio, e dall'altra parte per soli 3 km di passeggiata sulla meravigliosa pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, che è stata definita la più bella d'Europa. Quindi camminiamo tutti insieme a fianco di quel mare che ospita migliaia e migliaia di cetacei, per testimoniare tutti insieme quanto teniamo questo straordinario patrimonio. Allora ripetiamo i dettagli: 11 e 12 giugno, quindi tra poche settimane. Il programma, anche gli eventi collaterali, li trovate su www.corroperlebalene.it. Più facile di così, ci hai convinto. Grazie davvero Sabina, allora ci vediamo a Sanremo, ciao! Grazie a voi, vi aspetto. Pensa tu che patrimonio, migliaia di balene, sono veramente tante, sono lì, dobbiamo proteggerle. Assolutamente sì, dobbiamo correre per proteggerle. Allora ripetiamo, l'11 e il 12 giugno a Sanremo. Cari ascoltatori, grazie per averci ascoltato anche questa settimana. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao.